Voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Una buona giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come appunto la politica può cambiare la rete, ed è più su questo secondo aspetto che ci concentreremo questa settimana, perché il nodo che vogliamo affrontare, l'abbiamo già fatto in altre occasioni, ma ci vogliamo ritornare, è il tema della legge sulla diffamazione. Come sapete, il Parlamento da tempo sta ragionando e sta cercando di modificare la legge sulla diffamazione, togliendo sostanzialmente il carcere, la previsione del carcere per i giornalisti, convertendo tutto in pena pecuniaria. E però che cosa succede? Che un gruppo di deputati di Scelta Civica, capeggiati dall'ex magistrato Stefano D'Ambrosio, ha presentato all'interno, insomma, delle proposte di modifica della legge sulla diffamazione qualcosa che riguarda internet e in particolare riguarda i blog. È stata definita anche questa un'altra volta una norma ammazza blog. Che cosa vi si prevede? Vi si prevede, testuale, lo leggiamo, per i siti informatici, ivi compresi i blog, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta, in testa alla pagina, prima del corpo dell'articolo, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferisce. Quindi, insomma, il tema è proprio questo. Sono innanzitutto le 48 ore, che è un tempo breve, insomma, nel senso che non è che tutti stiamo costantemente in rete. Che cosa vuol dire siti informatici? Cosa vuol dire siti informatici? Cosa vuol dire un sito internet, oppure se scrivo un tweet, oppure se scrivo un commento ad un video su YouTube che viene ritenuto diffamatorio, che cosa deve fare? Chi si muove? Si muove YouTube? Si muove qualcun altro? Ne parleremo proprio con Stefano D'Ambrosio, che, come diciamo, è primo firmatario e quindi estensore anche di questa legge, e con Massimo Mantellini, che è un blogger e che si è dimostrato molto critico su questa proposta in una discussione, in un dibattito che è andato in rete, lo ritrovate sulle pagine de Il Post, il giornale online diretto da Luca Sofri. Parleremo di questo e poi incontreremo come sempre i nostri amici di Voices from the Blogs, che analizzano la rete, analizzano i social network, cercano di cavarne informazioni, il sentimento della rete, per così dire, nella fattispecie su due fatti di questa settimana messi a raffronto. Lo so, insomma, vi sembrerà esagerato metterli a confronto, però è interessante anche questo alla fine, ossia la vicenda che ha condotto alle missioni del ministro dello sport e pari opportunità Josefa Idem, e invece la vicenda della condanna di Silvio Berlusconi. Quindi due eventi politici rilevanti, completamente diversi, ma vedremo di capire che cosa si dice sui social network se la Idem e Berlusconi vengono ritenuti colpevoli di quello di cui sono accusati. Italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è il punto di, è il momento di raccontare la settimana politica, appunto, col punto di Stefano Folli, una cacofonia assoluta. Il punto di Stefano Folli. Ecco, così abbiamo detto punto quattro volte nel giro di 30 secondi. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno. Benvenuto. Allora, iniziamo proprio, come dire, a dare... Partiamo dalle questioni economiche, come evidente, insomma, no? Queste tensioni che continuano ad accumularsi, perché il governo qualcosa ha tentato di fare. Sull'IVA si è deciso un nuovo rinvio, quindi insomma rinviata l'IVA, rinviata l'IMU, non sapremo quante tasse pagheremo tra settembre e ottobre, però insomma così è. Rinviati anche gli F-35. Rinviati anche gli F-35. Anche quello è un rinvio, non è né un annullamento, né, è un rinvio. E quindi stiamo là a rinviare e col PDL che sembra incrementare la tensione, no? Soprattutto alle parti di Brunetta, ho visto. Sì, sono tensioni che non sono mai decisive, definitive, perché poi abbiamo visto che quando Berlusconi invece vuole spegnere l'incendio lo fa in un attimo, no? Quando decide di andare da Napolitano e dire che lui è un leale sostenitore di Letta, in quel momento è nei panni del pompiere e queste tensioni che provengono dall'interno del suo partito spariscono per un po', poi riaffiorano. Beh, insomma, questo è un gioco a cui dobbiamo abituarci. Berlusconi da un lato fa il protettore del governo e dall'altro lascia che i falchi, diciamo, della sua parte politica corrano la loro corsa. È un copione a cui dovremo abituarci fino almeno a ottobre-novembre, quando la Cassazione si pronuncerà sulla questione Mediaset. Quindi un gioco di lotta e di governo, se vogliamo, no? Da una parte si gioca a fare l'opposizione, no? Da una parte... Puntura di spillo. Sì, si gioca a fare l'opposizione. Certo, Brunetta spesso parla da capo dell'opposizione. Io credo che per evitare il logoramento prodotto da queste situazioni, Letta debba mantenere una rotta ben stabile, dando l'idea che ci sia a Palazzo Chigi una leadership forte. Credo che sia l'unico modo per contenere, non per annullare, ma per contenere queste tensioni. E rinviare un po' di meno magari, e decidere. Ma anche questo, certo, si rinvia troppo. Troppo per un governo di grande coalizione, ecco. Questo, i rinvii sono tipici di governi deboli. Questo dovrebbe essere sulla carta un governo forte, ma... solo sulla carta. Lo è al momento solo sulla carta. Dunque, la settimana ha portato anche un altro, qualche altro fatto. Naturalmente ritorniamo sul tema del PDL, no? La sentenza che ha riguardato Silvio Berlusconi. E poi all'interno delle tensioni di governo, questa vicenda della Idem che ha incuriosito un po' tutti, no? Certamente una vicenda minore, no? all'interno delle sorti del governo. Però che segnale è stato? Interessante. Una vicenda minore, ma non è un bel segnale, insomma. Quantomeno dimostra una certa leggerezza nella scelta di queste personalità che sono andate a occupare dei posti importanti nel governo. Insomma, il governo è uscito leggermente incrinato nella sua immagine. Tutto si supera, per carità, però non c'è dubbio che poteva essere gestita meglio questa vicenda. Questo dal punto di vista della Idem, ma insomma, alla fine la domanda definitiva è questa, Stefano: ma secondo te regge questo governo oppure no? Regge a lungo? Secondo me regge, adesso se è a lungo, bisogna intendere cosa si vuol dire dicendo lungo, perché se mi chiedi se durerà una legislatura tenderei a dirti proprio di no, se mi chiedi se cadrà quest'estate ti rispondo ugualmente di no. Quindi si va avanti di 6 mesi in 6 mesi e questo naturalmente non è una rassicurazione, perché è un governo che sta in piedi perché non ci sono alternative. Sta in piedi perché, insomma, ci sono tante ragioni sia a destra che a sinistra per mantenerlo, ma il problema è in grado di governare in maniera incisiva, cioè è in grado di far sprigionare la forza politica di una grande coalizione? Questa è la vera domanda. Per adesso qualche risultatino si è ottenuto, ma ancora troppo poco per dare un giudizio che sia più confortante, diciamo. Il rischio di vivacchiare è forte, no? C'è questo rischio e questo è in contraddittorio con una maggioranza così larga in Parlamento, però sappiamo che questa è una maggioranza, diciamo, obbligata dalle circostanze, ma poco convinta. Sia a sinistra che a destra non c'è reale convinzione di unirsi per uno sforzo di coesione nazionale. Allora, Stefano, naturalmente dicevi qual è la scadenza giudiziaria più importante, no? Che è evidentemente quella che riguarda la sentenza Mediaset per Silvio Berlusconi. L'impressione è che ci sia anche un'altra scadenza dal punto di vista soprattutto della politica economica che si sta attendendo, anzi due scadenze. Una giudiziaria e una politica sono tutte e due tedesche, ossia la sentenza della Corte di Karlsruhe sul sistema di salvataggio o sul fondo salva stati e dall'altra parte naturalmente le elezioni in Germania. Forse parte di questa indecisione che c'è al momento può dipendere da questo? Io penso di sì, È difficile fare una previsione sul voto tedesco perché Però è vero quello che dici, cioè, è un punto di passaggio molto importante. Nessuno ti dice che se dovessero vincere i socialdemocratici la politica tedesca cambierebbe. Però la sensazione è che anche con una vittoria della Merkel, soprattutto se si dovesse arrivare anche lì a una grande coalizione, probabilmente qualche aggiustamento nella politica europea ci sarebbe. E questo naturalmente è molto importante. Forse anche questi segnali, questo piano per la disoccupazione, forse, dico forse, vanno un po' nel senso di attenuare il rigore e di dare qualche po' di slancio all'economia dei paesi più indebitati. Ecco, certamente è un passaggio fondamentale per noi che non abbiamo la forza e gli strumenti per tirarci fuori dai guai da soli. Naturalmente sì, fai riferimento a quello che è successo ieri e che vi abbiamo raccontato anche questa mattina nei giornali radio, ossia questo miliardo e mezzo arrivato sì. dall'Europa, insomma i fondi triplicati contro la disoccupazione, ed Enrico Letta che dice appunto che le imprese non hanno più alibi. Ecco, dal lato del Partito Democratico, perché poi anche quella è un'altra questione, no, che un po' più sotto traccia rispetto a quella del PDL, che però naturalmente c'è, ed è i tempi del congresso, quando arriveranno, chi si candiderà. Si parla di uno Stefano Fassina da opporre a Matteo Renzi, si è parlato. Ma mi sembra che sia una grande confusione ancora. I tempi certamente non sono brevi, si tende ad allungare il brodo, però è evidente che, io penso quello che dico sempre, che alla fine è Matteo Renzi che è il fabbro del suo destino. È chiaro che il Partito Democratico, il ceto politico, il Partito Democratico cercherà di opporsi e di opporgli una serie di muri, di barriere, ma se lui ha la tempra politica e la stoffa per ambire realmente a essere il leader del futuro centrosinistra, di un centrosinistra che rompe le vecchie incrostazioni, no? Che si proietta verso il centro, beh, insomma, deve dimostrarlo adesso è il momento di dimostrare questo. Non ci sono partiti che ti vengono regalati su un piatto d'argento, non ci sono partiti che si aprono come le acque del Mar Rosso davanti a Mosè. Occorre prendersi in mano le cose, chiunque siano gli oppositori, e dimostrare di avere la tempra politica di vincere una battaglia. Renzi fino adesso questo non l'ha ancora dimostrato, è un grande comunicatore ma deve ancora dimostrare la sua tempra politica. Bene, ti faccio chiudere parlando un po' dell'opposizione, di quel poco che è rimasto, perché naturalmente in una grande coalizione insomma quel poco è rimasto di opposizione, ossia il Movimento 5 Stelle. Mi sembra che dopo le prime uscite le cose complessivamente si stiano assestando progressivamente. Io non ho mai creduto che ci sarebbe stata una scissione in grande stile, l'ho anche scritto sul Sole 24 Ore. Io ho sempre immaginato che ci fosse una piccola uscita, delle uscite dalla spicciolata, così come mi pare si stia avvenendo, il che conferma da un lato comunque lo stato di grave difficoltà politica in cui si trova questo movimento, che ha bisogno disperatamente di scenari elettorali per poter galvanizzarsi, no? Ha bisogno di, se domani mattina ci fossero le elezioni, Grillo tornerebbe nel suo elemento e sicuramente recupererebbe una parte dello smalto perduto. Un po' come Berlusconi. Sì, molto come Berlusconi. Ma no, è tipico dei movimenti populisti. I movimenti populisti hanno bisogno del momento elettorale, del momento del contatto con la folla, e stanno male poi nelle istituzioni. Non c'è dubbio, è vero quello che hai detto. D'altra parte si dimostra proprio con la scarsità di queste defezioni, il fatto che non sono organizzate, si dimostra che non c'è una sponda possibile per un'altra maggioranza. Cioè il Partito Democratico non può trovare lì nel Movimento 5 Stelle, nei dissidenti, una eventuale sponda parlamentare per poter organizzare una maggioranza diversa dalle larghe intese. E questo è un altro elemento che, insomma, che ci fa capire che siamo su un sentiero obbligato, il che non significa che sia un sentiero facile, è un sentiero in salita. Grazie anche per questa settimana. Grazie a te, Stefano Folli. Grazie Stefano, buona giornata. Come vi dicevo in apertura, tra poco ci occuperemo di due cose. Innanzitutto di come la rete ha valutato le vicende di Josefa Idem, appunto, e di Silvio Berlusconi. e poi andremo su questa legge, nuova legge che si vuole fare sulla diffamazione, con questa norma proposta da Scelta Civica che viene definita, è stata definita da qualcuno, ammazza blog. Vedremo effettivamente che cosa contiene e quali critiche si possono muovere, anche appunto quali sono i contenuti. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. In apertura di questa seconda parte di Vota Antonio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, come sempre incontriamo i nostri amici di Voices from the Blogs, che lo ricordiamo, un progetto dell'Università Statale di Milano, con il quale si cerca, insomma, cercano di catturare i nostri amici di Voices from the Blogs il sentimento della rete. Che cosa pensa la rete su determinati argomenti, scandagliando ovviamente soprattutto nei social network. Questa settimana ci occupiamo della vicenda Berlusconi e della vicenda di Josefa Idem. Andrea Ceron di Voices from the Blogs, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Anzi, bentornato Andrea. Allora, innanzitutto da dire che questa volta avete iniziato ad introdurre anche l'analisi di qualche post su Facebook, cioè da Twitter avete iniziato a ricomprendere anche Facebook, anche se naturalmente l'analisi di Facebook è un po' più complicata naturalmente. Che cosa emerge sul processo Ruby? Silvio Berlusconi è colpevole secondo la rete, per così dire? Sì, la rete è abbastanza inflessibile, ovvero analizzando circa 50.000 post di Twitter e anche 7.000 commenti rilasciati sulle bacheche pubbliche di Facebook, nelle ore immediatamente successive rispetto alla sentenza di condanna di Berlusconi, abbiamo notato che una grande maggioranza, del 72% addirittura, considerava Berlusconi colpevole o quantomeno responsabile dei fatti che erano stati a lui imputati. E però la cosa interessante qua è che in realtà è una sentenza che viene ritenuta, insomma, non solo giudiziaria, cioè la tesi del PDL è parzialmente accolta. Diciamo che c'è una netta distinzione tra quella che è il giudizio sui fatti avvenuti, ovvero Berlusconi effettivamente ha compiuto quelle cose secondo gli utenti dei social network. Dall'altro lato però viene emesso un altro giudizio, ovvero anche i giudici, i magistrati vengono sottoposti a una sorta di processo sui media, su Twitter e Facebook, dicendo che cosa? Fondamentalmente che sì, la scelta di indagare Berlusconi, di dare questo tipo di condanna, soprattutto per l'entità della condanna, 7 anni, ma anche per il fatto di aver scelto di indagare su un reato che a volte, insomma, agli occhi dei cittadini appare difficile da giustificare, fa sì che venga percepita come una politicizzazione della sentenza e quindi, se vogliamo usare, politicizzazione anche della magistratura in sé, che decide di indagare Berlusconi perché è il premier, perché è visibile, ma anche perché è probabilmente del PDL rispetto ad altri. Ecco, interessante che poi sia la stessa percentuale che si dice convinta che si andrà avanti fino alla fine, fino al terzo grado di giudizio, mentre invece un 33% ritiene che ci sarà un'amnistia, una legge ad hoc o una riforma della giustizia. La maggioranza, anche se con uno scarto piuttosto basso, ritiene che l'effetto sul governo Letta sarà di una minore stabilità. Pesano naturalmente anche le dichiarazioni che sono arrivate subito dopo. Il 50,8%, il 20,4% è convinto che non ci sarà nessun effetto, e invece c'è un 28,8% che è convinto che questa sentenza del processo Ruby darà più stabilità al governo Letta. Di palo in frasca passiamo da Berlusconi al caso di Josefa Idem, insomma, la vicenda che ha riguardato la ministra e che ha condotto alle sue dimissioni. Tutti convinti che sia colpevole? Sì, qui la rete non fa sconti a nessuno, né a Berlusconi, né ai giudici e nemmeno a Josefa Idem, che viene considerata responsabile dei fatti anche alle imputati dall'85% della popolazione. Solamente un 5% crede che sia completamente inconsapevole di quanto era avvenuto nella vicenda IMU. E addirittura le dimissioni di Josefa sono considerate doverose, se non addirittura tardive, da molti. Addirittura tardive, secondo il 10%. Esatto. Mentre un altro 10% circa, solo il 10%, dice è stata vittima di una sovraesposizione mediatica. Quindi tra giudici e politici, forse ecco, gli unici che se la passano bene in questo caso sono i giornalisti, che non vengono particolarmente accusati dalla rete. Per una volta non è male. Per una volta tanto. Per una volta. Grazie anche per questa settimana, Voices from the Blogs, e ad Andrea Ceron. Vi ricordo che poi tutto questo lo trovate anche su, è stato messo su sentimeter.corriere.it. Noi adesso ci occupiamo, parlato appunto di Berlusconi, abbiamo parlato della idem, e chissà quanti tweet e quanti status su Facebook si sono fatti appunto proprio sulla vicenda Berlusconi e sulla vicenda idem, e chissà quanti di questi potenzialmente diffamatori, potenzialmente contenenti ingiurie nei confronti dei due, e chissà quanti di questi post potrebbero essere sottoposti alla nuova legge proposta da Scelta Civica. Ed eccoci qua, come si diceva, adesso vogliamo parlare della nuova legge sulla diffamazione e di questa norma che è stata pensata da Scelta Civica, primo firmatario e forse estensore anche Stefano D'Ambrosio. D'Ambrosio è anche estensore lei di questa proposta di legge, sì? Beh, in questo modo così formale sì, nel senso sono sicuramente il deputato che ha presentato la proposta, quindi sì, sono l'estensore. L'estensore. Allora, saluto anche Massimo Mantellini, blogger. C'è stata un'interessante discussione su Il Post, il giornale online diretto da Luca Sofri, proprio tra D'Ambrosio e Mantellini, su questo set di norme, in particolare quelle che riguardano internet, perché c'è qualcuno che ha definito questa norma una norma ammazza blog. Buongiorno Massimo, benvenuto e bentornato ai microfoni di Voto Antonio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, la parte incriminata: per i siti informatici, ivi compresi blog, le dichiarazioni e le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta, in testa alla pagina, prima del corpo dell'articolo, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono. Io la prima cosa che voglio capire da lei, D'Ambrosio, è che cosa intende per siti informatici, perché capisce bene che qua, insomma, un po' di confusione si possa generare. Che cosa vuol dire? Vuol dire anche i social network, per esempio? Vuol dire anche un commento ad un post di qualcun altro? Prego. Ma sicuramente l'esigenza è quella di non lasciare insomma, una prateria aperta alla libertà di diffamazione. Questa è la prima esigenza. Seconda esigenza, che ritengo insomma, di poter rappresentare con una legge che deve essere approvata, emendata, per cui sono assolutamente accoglibili, così come sta già avvenendo con questa interlocuzione che sto avendo sin dai giorni scorsi con Mantellini, dei miglioramenti si possono sicuramente fare, ma l'esigenza è, da un lato, togliere il carcere per chi diffama, perché il carcere sia sulla stampa insomma, non online, sulla stampa tradizionale, sia sulla stampa appunto via web, ma soprattutto quello di dare e valorizzare molto l'istituto della rettifica, perché è davvero l'unico strumento concreto che da un lato fa recuperare la lesione della reputazione che si realizza ogni volta che si diffama qualcuno, sia sulla carta stampata che su quella online, e dall'altro si evita che ci sia un aggravio del carico e del peso giudiziario sulle centinaia di processi che si andrebbero a svolgere nel caso di querele, quindi se la risposta giudiziaria fosse l'unica, non l'unico strumento a disposizione di chi si sente diffamato. Ecco, entrambe queste esigenze tendenzialmente sono racchiuse in quelle norme che sono state rappresentate. Ora, che cosa si intende per sito piuttosto che per sicuramente Facebook non è una stampa online, diciamo, diciamo l'età. Quindi tutto quello che insomma, non è avvicinabile alla pubblicazione via stampa, ma anche tutto quello che poi non viene ripreso da un da un sito che invece dovrebbe seguire questa normativa e che magari, come ho avuto modo anche di dire, non ripete una rettifica che invece il sito originario fa, ecco, in tutti non è facile seguire, ma in tutti questi casi io credo che la legge che stiamo proponendo possa essere applicata. Poi chiaramente nessuno vuole oscurare Facebook, nessuno vuole limitare la libertà di espressione, ma possiamo vivere in un paese in cui in modo poco naif si continua a intendere il blog come un luogo, con tutto il rispetto, ma si usa dire tribale, dove c'è la grande tribù dei bloggers che non possono essere toccati da un sacrosanto regolamento che disciplini principi costituzionalmente garantiti, libertà di espressione, ma anche dignità della persona e propria reputazione. Questa è la sua posizione, D'Ambrosio. Massimo Mantellini, cosa c'è che non va in queste norme secondo te? Molte cose dal mio punto di vista. Apprezzo molto l'idea che è contenuta nella proposta di spostare su un campo di arbitrato, insomma, quello legato alla rettifica, le eventuali cause che molte volte non dovrebbero essere fatte. Però c'è un problema grosso riguardo all'identificazione dei soggetti che devono occuparsi di questo, cioè non possiamo pensare che tutte le pagine web, perché di fatto questa estensione dell'idea di sito informatico significa che qualunque sito web di qualunque natura debba essere trattato come un prodotto editoriale. Questo è impensabile proprio da un punto di vista pratico. L'altra, strettamente collegata a questa, c'è la questione che 48 ore di preavviso sono un tempo assolutamente ridicolo per persone che gestiscono in maniera amatoriale questi siti. Questi sono i due problemi principali. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ci sono le obiezioni, dunque, come avete sentito, che fa Massimo Mantellini a questa proposta di legge lanciata da Scelta Civica. Poi, appunto, vi consiglio di andare sul post dove trovate questo dibattito interessante, perché poi c'è anche una questione, se vogliamo, filosofica, appunto, dove Mantellini scrive che imporre obblighi di rettifica su internet, dove la rettifica e l'aggiornamento fanno parte del bagaglio culturale, insomma, no? È una cosa diversa da immaginare questo, che piuttosto che immaginarlo per la stampa. Ma al di là di questo, della questione filosofica, rimaniamo, sulla quale devo dire concordo abbastanza, però insomma questo è opinione del conduttore, per carità, cerco di tenermi in mezzo tra le due posizioni. D'Ambrosio, come risponde alle osservazioni di Mantellini? Che tutto è migliorabile, che anche il suo suggerimento è assolutamente accoglibile, quello delle 48 ore si può assolutamente rivisitare, senza considerare una passo indietro o comunque una retrocessione dello spirito della legge. Assolutamente sulle 48 ore si può assolutamente rivedere, e questo sarà, insomma, già l'ho annotato, già me lo sto considerando con tutta l'utilità del caso. Ripropongo la stessa, ritornando alla prima osservazione, che cosa dobbiamo intendere per blog piuttosto che sito, o comunque l'area di il punto, D'Ambrosio, è questa equiparazione di fatto a prodotti editoriali, cioè di tutti i siti a prodotti editoriali, no? È anche questo, no, è un problema vero, è un problema vero, però io le lancio non in termini polemici, ma soltanto come spunto di riflessione. Noi ci troveremmo di fatto, per esempio, ad una notizia falsa e diffamatoria che viene pubblicata sul Corriere.it o su Repubblica.it, che sono delle testate online, sicuramente sono dei giornali online. Ebbene, se un soggetto, anche singolo, con il proprio sito, con linka quella notizia falsa, io riesco ad ottenere la rettifica dal giornale, perché appunto il giornale entro le 48 ore o il tempo che sarà necessario andrà a rettificarlo. però quello stesso obbligo non ricade su chi è andato all'incarno e se lo può tenere lì nel proprio link per tutto il tempo senza la rettifica. E questo è un problema che il mondo web pone e si dovrebbe porre. Sì, io spero poi che questi grandi giornali online cambino i testi a quel punto oppure cancellino quel pezzo dall'archivio, quindi il link molto semplicemente non funziona più, insomma. Però a me, insomma, in tutta sincerità, Massimo Mantellini, allora a me sembra che in qualche modo questa questione vada risolta, no? Perché il solito tema non è che puoi scrivere quello che ti pare su tutti in qualsiasi luogo. Detto ciò, però, la soluzione è molto difficile. Secondo te quale potrebbe essere un'impostazione giusta, al di là del fatto che abbiamo incamerato ad Ambrosio che sulle 48 ore ci ripensa? Dunque no, questa cosa del link è ancora più inquietante, nel senso che ovviamente un link è un link, non è una sorta di sottoscrizione di nessun tipo di contenuto, quindi se dobbiamo immaginare che ci debba essere una rettifica anche in tutti i siti che linkano un sito dove c'è una notizia diffamatoria, siamo veramente alla follia. Ma a parte questo, la questione è molto semplice, c'è una normativa in atto che tra l'altro è stata usata e anche spesso abusata per quanto riguarda la diffamazione in rete. Abbiamo decine di casi di siti web che sono stati chiusi con provvedimenti d'urgenza prima ancora che ci si esprimesse sul merito di eventuali episodi diffamatori. Qui non possiamo sempre usare come dire, la molla secondo il quale la diffamazione deve essere comunque trattata in maniera diversa rispetto a quello che succede. Nessuno vuole depotenziare la possibilità di chiunque di fare valere i propri diritti. Bisogna avere una qualche forma di equilibrio. Su internet questo è molto difficile, perché da un lato è vero che molte notizie rimangono e sono a disposizione di chiunque per molto tempo attraverso i motori di ricerca. Dall'altro punto di vista sono notizie che normalmente sono sepolte all'interno del web e che vengono raggiunte soltanto dai soggetti interessati, quindi è molto difficile trovare un equilibrio di questo tipo. Io penso che, come succede in tutti gli altri paesi, non ci sia bisogno di provvedimenti di tipo disciplinare di qualche tipo, ma semplicemente di una autoregolamentazione che gli utenti della rete devono capire, perché hanno responsabilità esattamente come ce l'hanno nella vita pubblica. D'Ambrosio, per chiudere, perché siamo quasi in chiusura, il tempo sta per scadere, me la dice una cosa, ma perché non consultate gente come Mantellini e come molti altri che si occupano quotidianamente di rete, di regole della rete, e insomma magari ripensate questa proposta di legge, consultando chi ne capisce, che ci lavora quotidianamente? No, guardi, non solo perché lo sta dicendo lei, mi fa piacere che lo dica lei, quindi dia per accettato questo suo suggerimento, così dà un senso anche a questa breve conversazione che abbiamo fatto. Mi fa piacere dirle che assolutamente Mantellini, o chi per lui, sarà sicuramente ascoltato con tutta l'attenzione. Mi fa piacere pure dire che avrò invece suggerimenti importanti dal mio collega di partito, così si dice, che è Stefano Quintarelli, che è un altro che, come Mantellini, ne capisce molto, per cui riceverò i suoi consigli sicuramente per andare a individuare il giusto equilibrio tra queste esigenze prospettate adesso in trasmissione da Mantellini, e che spero, insomma, di poter. Allora facciamo così, ce lo dica, la riscrive quella parte della proposta di legge? Ma assolutamente sì, andiamo a riscriverla insieme, considerando tutti gli interessi in gioco e tutti i diritti in gioco. Grazie a Stefano D'Ambrosio, grazie a Massimo Mantellini per essere stati con noi, grazie ad Alessandro Chiappini in regia, grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo se volete lunedì con 9 in punto, oppure la settimana prossima alle 9, come sempre c'è Votantonio. Italia!